Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953. Traduzione di Ena Marchi. Lucie et Jim. Otto giorni dopo, Jules e Jim erano soli in uno scompartimento del trenino locale che li portava verso Lucie. 6 ore di viaggio. Jules, senza perdere la sua placidità, era agitato. Raccontò a Jim un sogno che aveva fatto la notte precedente. Camminavamo con cautela, voi e io, sui muri di una grande casa in demolizione. Rischiavamo di cadere in certi cespugli di spine. Voi andavate avanti e io vi seguivo tenendo per mano Lucie, che era dietro di me. Più in là Gertrude e altri. Voi arrivavate al punto in cui il muro finiva. Impossibile andare oltre. Stare fermo mi dava le vertigini, mi chiedevo se sareste tornato indietro. All'improvviso faceste un salto, come quando saltate con l'asta, ma senza asta. Qualcuno gridò, ma già voi eravate in piedi, sorridente, sul muro di fronte, a 6 passi da lì. E a questo punto mi sono svegliato. Jules aggiunse senza una pausa, «Volete giocare a domino?» «Sì», disse Jim, a cui quel gioco non piaceva. Jules tirò fuori dalla sacca da viaggio delle pedine ultrapiatte che gli aveva regalato la madre e giocarono a lungo. Jim ce la metteva tutta, ma vinceva sempre Jules. Mancavano ancora 2 ore. Jules si mise allora a raccontare di Lucie e di lui dall'inizio, di come lei era stata infelice e malata per un altro, di come lui l'aveva curata e di come a poco aveva incominciato a sperare. Jim vide con angoscia la forza di quell'amore. Jules consacrò la sua prima giornata nella cittadina a un pellegrinaggio a distanza tutti intorno alla casa di Lucie. Aveva visto quella casa una volta sola per poche ore, una sera d'inverno. Sperava di intravedere Lucie mentre leggeva davanti alla finestra, era probabile che non lo facesse mai, e di poterla contemplare da lontano prima di andare da lei. Passarono fra gli alti muri dei giardini, per le stradine in salita. Presero il tè a testa bassa sotto un pergolato per non essere visti da Lucie, tenendo d'occhio una casa che un attimo dopo si rivelò non essere quella giusta. Jules, in quel suo sogno ad occhi aperti, fu colto come da una vertigine. Vedeva la casa dappertutto. Camminavano ed erano in un bagno di sudore. L'indomani la trovarono al suo posto, in fondo a un viale monotono, vasta e bianca in mezzo al suo parco. Jim venne presentato all'aureola di capelli bianchi che era il padre di Lucie, ancora buon parlatore. Lei se ne stava nell'ombra di lui. Tutto spirava ordine e precisione. Lucie aveva riservato per Jules e per Jim 2 grandi stanze in una locanda tutta di legno fuori città, sul fianco di una collinetta da cui si vedeva la casa. Potevano, con i binocoli, scambiarsi dei segnali. Fu là che vissero, in quella cornice scelta da lei, aspettando le occasioni di vederla. Loro sarebbero andati ogni giorno, ma non bisognava disturbare i genitori e neanche dare esca a troppi pettegolezzi nella cittadina. Erano invitati spesso a casa di Lucie. Jim fece bella figura sul campo da tennis del parco, meno in salotto dove si annoiava. Tutto il contrario di Jules, che voleva sedurre almeno il padre. La casa era vasta, piena di sorelle maggiori, di nipotini e nipotine, di domestiche e di cani di razza. La madre, che si vedeva di rado, dirigeva tutto. Dovevano stare lì 6 giorni. Rimasero 6 settimane. Jules era in un'estasi inquieta e non presentava la sua domanda. Lucie non lo incoraggiava ed era tanto bello così. Arrivò il fratello minore di Lucie, uno studente raffinato e sportivo, e allora fecero, su per i boschi, zaino in spalla, delle escursioni a 4 che duravano un'intera giornata e durante le quali capitava, ora a Jules, ora a Jim, di trovarsi solo con Lucie. Fu forse il contatto permanente con l'amore di Jules? Fu la forza d'attrazione della quieta vita in famiglia coi suoi riti provinciali che facevano così bene da cornice a Lucie? O fu semplicemente Lucie? Fatto sta che Jim, a poco, suo malgrado, si innamorò di lei. Lo aiutarono Jules, senza saperlo, il fratello di lei, sapendolo, e forse la stessa Lucie. Un giorno che camminava nella foresta accanto a Jim, Lui si rallentò il passo, si aggiustò le stringhe degli scarponcini che le chiudevano morbidamente i piedi, guardò da lontano Jules e suo fratello entrare in una locanda e disse a Jim: «Sediamoci, abbiamo tempo. Ditemi a cosa pensate». «Ecco», disse Jim, «in fondo Jules è felice a modo suo e vorrebbe che tutto continuasse così. Vi vede spesso in maniera idilliaca. Vive di speranza. Vi farebbe piacere che lo sposassi? Per lui sì. Per voi no. Per lui sì, no, nemmeno questo. Io sarei per lui una cattiva moglie. Ammiro quello che scrive, è un uomo buono, piacevole, ma sono indignata mio malgrado dalla sua ostinazione a volermi sposare. Ho avuto un grande dolore anch'io prima di conoscere Jules. Me ne ha parlato, non è vero? E soffro di vederlo soffrire. Voi gli siete amico. Aiutatemi ad aiutarlo. Aiutatemi semplicemente». Affidò a Jim le lunghe mani che tremavano. Spuntarono due lacrime. Jim, senza una parola, la prese fra le sue grandi braccia e la sollevò. La leggerezza del corpo di lei gli fece quasi impressione. La portò fino a un tronco abbattuto, vi si sedette e se la prese sulle ginocchia. Non parlavano. Lui vedeva da vicino il viso di lei. Cercava di pensare a Jules, ma sentì i capelli di Lucie sfiorargli le labbra. «Lo amate ancora?» disse Jim. «Chi?» «Il primo». «Forse, ma è una cosa che si allontana e che deve morire». «E voi, Jim?» «Io che cosa?» «Voi avete amato Jim. Per davvero, Jim. Si sente. Perché non l'avete sposata? È andata così. Lei dov'è?» «In Francia. E com'è?» «Pura, anche lei». Jim sentì una pressione del braccio di Lucie. «L'amate ancora? E lei vi ama?» «Sì, ma ci vediamo poco, pur essendo liberi entrambi. Non fate soffrire, Jim. E poi c'è qualcos'altro». «Che cosa?» «Io vi ammiro, Lucie. Ho preso gusto a vedervi. Ho paura di dimenticare Jules». «Non bisogna dimenticarlo. Bisogna avvertirlo». Di nuovo tacquero. Lucie citò: «Alles das Neigen von Herzen zu Herzen, ach wie so eigen, schaffet das Schmerzen». «Traducete», disse. «Tutte le inclinazioni che da un cuore vanno a un altro cuore. mio Dio, di quanti dolori sono causa», disse Jim. «Non c'è male», disse lei con un sorriso, «benché quel mio Dio sia un'aggiunta». «E Gertrude?» chiese a un tratto. «Gertrude è un bello sport», disse Jim. Aveva preso fra le labbra un ricciolo di Lucie che il vento gli spingeva sulla bocca. Lei piegò il lungo collo e gli offrì attraverso i capelli il contatto delle labbra. Si rialzò lentamente. Raggiunsero gli altri. Fecero altre passeggiate. Il cuore di Jim si gonfiava. Lucie ritrovava colori e buon umore. Presto l'estate declinò. Jules fece a Lucie la sua domanda di matrimonio, aggiungendo che quale che fosse la sua risposta avrebbe potuto sempre disporre di lui. Lucie gli disse che era commossa, che probabilmente non avrebbe mai potuto sposarlo e che si augurava che la loro grande amicizia non ne soffrisse. Jules, che pure se lo aspettava, diventò pallido, le baciò le mani e andò da Jim. «Jim», gli disse, «Lucie non vuole saperne di me. Ho il terrore di perderla e che esca definitivamente dalla mia vita. Amatela, Jim, sposatela voi e lasciatemela vedere. Voglio dire, se l'amate, smettete di pensare a me come a un ostacolo». Jim disse: «Ecco come stanno le cose fra me e Lucie». E gli raccontò, giorno per giorno. Fu sorpreso e felice di vedere rischiararsi il volto di Jules, che disse a Jim: «L'ultima volta che avete giocato a tennis con Lucie, contro suo fratello e sua cugina, eravate come marito e moglie». Jules andò da Lucie. Le disse: «Jim mi ha detto tutto». E le fece gli auguri con tatto. Si offrì come protettore di Lucie e di Jim. Lei gli disse: Il nostro affetto è come un bambino appena nato. Bisogna lasciarlo in pace. Una sera Jules disse loro: «Adesso vi racconto il mio suicidio». Gli altri drizzarono le orecchie. Si aspettavano da Jules qualcosa del genere. Jules raccontò: «Avevo 15 anni, decisi di morire. Chiusi a chiave la porta della mia stanza. Sistemai sotto il mio letto un fornello a spirito sopra una pila di libri. Era il mio rogo. Lo accesi. Mi stesi comodamente sul letto e mi incisi profondamente col rasoio le vene dei polsi. Mostrò loro le cicatrici bianche e sottili. Il sangue incominciò a sgorgare veloce, poi si fermò. Svenni. Quando tornai in me, mia madre era al mio capezzale, avevo i polsi fasciati e c'era il dottore. Il letto non aveva preso fuoco bene, ma abbastanza perché la cuoca vedesse il fumo filtrare dall'alto della mia porta, che era stata sfondata. «Che cosa disse vostra madre?» chiese Lucie. «Non ne ha mai parlato». «Brava, ha fatto bene», disse Jim. «Quanti piani aveva la casa?» 6, disse Jules. «Sarebbe stato proprio un bel rogo», disse Jim. «Jules», disse Lucie, «voi certo davate la vita per un sogno, ma avreste potuto bruciare dei bambini ai piani superiori». «To», disse Jules turbato. «Non ci avevo pensato». Un'altra volta Jules raccontò: «Avevo 10 anni. Per andare a scuola attraversavamo un terreno incolto con in mezzo una montagnola di terra gialla. Tutti i ragazzi si divertivano a passarci sopra. Fu lì che un mattino Herman, un compagno, mi strappò la cartella, la buttò per terra e mi diede un pugno sul naso dicendomi: «Sei un ebreo schifoso!» Io perdevo sangue, non capivo. Ma la sera mia madre mi spiegò. Herman mi aggredì più di una volta, sempre lì, mai altrove. Era come un rito. Avrei potuto fare una piccola deviazione ed evitare quella montagnola. Invece no. E poi in fondo Herman mi piaceva». «Per se stesso?» disse Jim. «O perché vi picchiava?» «Per tutte e due le cose», disse Jules. «Jim», disse Jules a Lucie, «non è molto intelligente». Lucie alzò un sopracciglio. «Non ha bisogno di esserlo». Lucie sembrò rassicurata. «È come un cane da caccia che segue solo il suo fiuto». Lucie sorrise. «Si schiaccia il naso cercandosi addosso le pulci», continuò Jules trascinato dal paragone. Scoppiarono a ridere. «Vi guarda negli occhi un momento», disse lei, «vi butta le zampe sulle spalle, vi dà un colpo di lingua e vi fa cadere. Si volta e cerca la cuccia. Gli ci vorranno degli anni prima di fermarsi». «Lo aspettereste?» chiese Jules. «Chi lo sa», disse Lucie. «In ogni caso mi aiuta a rivivere». L'ultima sera, Lucie promise di andare a trovarli a Parigi, la primavera successiva. «Perdonatemi entrambi», disse Jules, «se ancora spero. Mi sembra che il mio amore durerà per sempre. Ho tutto il tempo. Vorrei che Lucie fosse malata, abbandonata, sfigurata per raccoglierla e consacrarmi a lei». «Tutte cose che possono succedere», disse Lucie con un sorriso stento. In treno, James spiegò a Jules che lui e Lucie non si sentivano maturi per il matrimonio. Era fatta lei per avere un marito e dei figli? Jim temeva che non avrebbe mai conosciuto una felicità terrestre. La vedeva come una grande sacerdotessa vestita di bianco. Si stupiva di tenerla fra le braccia. Era un'apparizione per tutti. Forse non la donna per un solo uomo. Così, per Jules, il loro amore apparteneva al relativo, mentre il suo era assoluto. Magda. Dopo qualche settimana di Parigi, Jules ebbe una reazione. Cercò di sfuggire a Lucie e si interessò di nuovo alle parigine. Con l'aiuto di Jim, mise un'inserzione nella rubrica Matrimoni di un grande quotidiano. Andò a trovarlo, fra le altre, una piccola Juliette, saggia e onesta. Jules si estasiò davanti alle sue calze bianche, alle scarpette di vernice, allo sguardo di lei diritto e vivo, al tic-tac preciso del suo cervellino. Insieme la portarono a teatro. Jules meditò per 24 ore di chiederla in moglie. «Per me è l'unico modo di avvicinare le donne», diceva. «Ma ma mi basta riuscirci una sola volta ed è fatta. Passò l'ombra di Lucie. Jules non ne fece nulla. Juliette non venne più. Jules ricevette una lunga lettera da un cugino più anziano. Gli parlava di un'amica, una vedova di 25 anni, che stava per arrivare a Parigi col suo bambino. Voleva Jules distrarla e mostrarle il quartiere latino? Lei scrisse a Jules che lo aspettava. Jules invitò Jim a pranzo e gli mostrò le due lettere. Passeggiarono alle Tuileries, davanti all'albergo della donna, aspettando l'ora dell'appuntamento. «Questa volta», disse Jules, «ho il presentimento che mi può andare bene». L'orologio di una chiesa suonò e Jules si avviò a passettini frettolosi. L'indomani mattina raccontò a Jim. «È dolce, piacevole, ha classe ed esperienza. È una musicista di talento, è libera. Sono già un po' innamorato. Forse neanch'io le dispiaccio. Jim, volete venire con noi al concerto stasera?» «Che bisogno avete di me?» disse Jim. «Starete molto meglio voi due, soli». «Sì, sì», insistette Jules. «Le ho parlato di voi, desidera conoscervi». «Eh già, io ho bisogno di voi». Così Jim si unì a loro. Jules fece le presentazioni. «Questo è Jim». Magda era come Jules l'aveva descritta, appassionata di canto, colta, senza pedanteria. Cenarono insieme. Jules le piaceva. Trattò Jim come un buon amico. Aveva qualcosa di avvolgente. «Finalmente», si disse Jim. In capo a un mese, Magda accordò a Jules i suoi favori. «Finalmente», si ripete Jim, che li vedeva spesso, incantato dallo spettacolo di un Jules felice. Lei rimetteva radici nella vita e si faceva più bella. Fra intimi smetteva il lutto. Ci furono però dei segnali inquietanti. Jules scrisse una poesia sulla matrona di Efeso e ricominciò coi suoi struggimenti, con le sue riflessioni mordenti che, senza che gli altri vi prendessero parte, gli si ritorcevano contro. Una sera tardi, in un caffè vuoto della Rue de la Gaieté, dichiarò: «Quel che conta è la fedeltà della donna, quella dell'uomo è secondaria». Jim si chiese se pensava a Lucie. Magda era impallidita. «Siete due idioti», disse. «Può darsi», disse Jim. «Io però non ho aperto bocca e non approvo necessariamente tutto quel che dice Jules alle 2 del mattino». «Protestate allora», disse Magda. «Protesto», disse Jim. Jules sembrò sorpreso. «Lo vedi?» disse Magda. Prese Jules per un braccio e se lo portò via come un bambino cattivo. Jim li vide insieme il meno possibile. Per quanto la sua vita lo tenesse parecchio occupato, andava ogni giorno a fare visita a Jules. Jules gli disse una mattina: «Magda si è messa in testa che ce l'abbiate con lei da quella volta della sua scenata al caffè. Abbiamo voglia stasera di prendere dell'etere per vedere che effetto fa. Siete invitato a cena da lei». Ed ebbe paura che Jim rifiutasse. «Grazie», disse Jim. «Ci verrò. Prenderò poco etere. Non mi piace questa roba». La cena fu servita per terra in piccole scodelle persiane davanti a un gran fuoco di legna. Magda aveva preparato con le sue mani dei piatti del suo paese. Jules lesse allegramente ad alta voce delle poesie in 3 lingue e Magda improvvisò qualcosa al pianoforte. Fuori batteva una pioggia fredda. Si stava bene lì. Arrivò il momento dell'etere. Armati di tamponi d'ovatta e di flaconi, cominciarono a inalare profondamente. Jim sentiva tutto questo come un errore fisico. «Esilarante», disse uno di loro. «Esilarante», dissero gli altri. Avevano il cervello irrigato di freschezza, le orecchie che fischiavano, immenso benessere. Si gonfiavano come otri. L'odore sgradevole all'inizio diventava necessario. Magda reagiva generosamente. Jim si lasciava andare solo a metà. Jules si abbandonava, sprecando cotone e liquido. I molti cuscini non bastarono più alla mollezza delle membra. Jules propose che ci si stendesse sull'ampio letto di Magda. Così fecero. Magda e Jim si misero ciascuno da una parte, lasciando a Jules il posto di mezzo. Ma Jules vi spinse Magda perentoriamente. I tamponi di ovatta continuarono, al buio adesso, ad assolvere la loro funzione. Passarono dei silenzi. Il fuoco mandava bagliori. Improvvisamente, come punto da una zanzara, Jules se ne uscì in un paradosso acre sulla doppiezza delle donne, a proposito di un fatto di cronaca di cui si parlava molto. «Per carità, Jules, niente psicologia stasera», implorò Jim. «E questo vale per me?» chiese Magda. «Certo», disse Jules ridendo, «per tutte le donne». E andò avanti a farsi beffe di se stesso e di Magda, mescolando banalità a battute di spirito. Tentarono di farlo smettere, invano. Jim fece uno sforzo per alzarsi. La mano di Magda lo trattenne. Lei si tappò le orecchie. Jules tacque un istante, poi scostò una delle mani di Magda. Lei lo lasciò fare, credendo a un gesto di tenerezza. Lui si chinò su di lei e le mormorò qualcosa all'orecchio. Non l'avrebbe fatto davanti a Jim se non fosse stato sotto l'effetto dell'etere. Magda ebbe un gemito. «Accendete, Jim», disse. Jim premette l'interruttore. Apparve il viso di Magda, ancora più contratto di quella sera al caffè. «Vattene, Jules», ordinò Magda. Jules aveva quella sua aria soddisfatta da bambino che tortura un insetto. L'ordine secco di Magda, ex moglie di ufficiale, agì su di lui come su un soldato. Scese dal letto, si tolse il kimono che gli era stato prestato, si rimise la giacca, le scarpe, passò in anticamera. Lo sentirono aprire la porta d'ingresso e richiuderla. Jim si mise seduto, pronto a seguire Jules. Magda lo tirò giù contro di sé. Aveva una crisi. Lo abbracciò. «Magda, voi volete vendicarvi di Jules», disse Jim, «e lo rimpiangerete». «Mai», disse lei, «e poi meglio voi che un altro». «È vero», pensò Jim, «con me la cosa sarà meno grave». «Non così», disse lei, e si mise a spogliarlo. Fu una notte sincera, quasi impersonale, impregnata di etere e vissuta in funzione di Jules, una bella fiammata pagana di quelle che non lasciano traccia. Al mattino, svegliandosi accanto a Jim, lei gli disse: «Non credete che Jules l'abbia voluto?» «Era ubriaco d'etere», disse Jim. «Sì», disse lei, «ma più Jules che mai, che sappia le conseguenze di quel che dice. Ditegli, vi prego, che cosa abbiamo fatto».